America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Solo andata, beh, è un po' che non raccontiamo delle storie di italiani che in qualche modo hanno trovato negli Stati Uniti un loro sbocco professionale permanente. Questa è l'idea, o comunque importante, perché poi qualcuno viene con l'idea di fare un solo andata e poi ritorna. Ecco, con me Antonio Baravalle. Antonio Baravalle in questo momento non vive in America, ma ha avuto dei trascorsi americani, perché ha lavorato con la Fiat, ha lavorato con Marchionne, ha lavorato con altri brand e adesso si occupa di caffè. Ne abbiamo parlato a suo tempo quando facevamo una trasmissione sulla Lavazza. Buongiorno Baravalle. Buongiorno. Dunque, buongiorno a tutti. Noi ci siamo già incontrati, abbiamo parlato di strategie dell'azienda per cui lei lavora, della Lavazza, ma ha lavorato con Marchionne, poi ci racconterà come è stato lavorare con Marchionne. Ma perché l'America deve essere il numero uno? Perché lei viene qui in continuazione per far sì che diventi il primo mercato per il vostro marchio? L'America per noi deve essere il mercato numero uno perché è un mercato, come avevamo già detto allora, da 500.000 di tonnellate. È un mercato che sta guidando un po' i trend di consumo in tutto il mondo, un mercato che sta guidando l'evoluzione dei clienti che si stanno un po' spostando dai caffè solubili e vanno verso i caffè espresso e vanno verso quelle che avevamo già chiamato allora le bevande a base latte come i cappuccini, i frappuccini. Quindi di qui si sta un po' delineando il nuovo modo di bere bevande a base di espresso per il mondo. Ma che cos'è l'America per lei? Parliamo dal punto di vista personale, perché io so che lei a un certo punto sognava di venire qui a fare l'oceanografo. Sì, devo dire che quando facevo il biologo e mi ero iscritto a San Diego alla scuola di oceanografia, questo era il mio sogno. Poi da fare andare a studiare i delfini, a vendere il caffè o a provare a vendere le macchine prima. Ce ne passa, ecco, però voglio dire, l'America è sempre un po' un pallino, ma cos'è l'America per lei? Ma è un paese straordinario che dà delle opportunità incredibili, basato su dei valori nell'ambito imprenditoriale e negli uomini manager, dove la meritocrazia è un valore, dove se si hanno delle idee possono ancora arrivare, essere portate avanti, c'è ancora la possibilità di giocarsi le scommesse. È ancora un mito che da questo punto di vista è molto forte e molto vero. E dall'altra parte è un mercato oggi che sta un po' andando a costruire le modalità di consumo di tutto il resto del mondo, quindi non ci si può non confrontare qui. Ecco, infatti io nella chiusa in genere del mio programma radio dico sempre che, insomma, l'America sta passando un momento difficile, ma resta pur sempre la nuova frontiera, quindi lo conferma. Condivido totalmente, continua a essere la frontiera, c'è un tipo di velocità al cambiamento, di dinamismo, di volontà di ricominciare anche nei momenti di difficoltà, che è quello che ci manca totalmente in Europa. Ecco, ma quando lei era a Torino, tornava a casa dal suo liceo Gobetti e faceva i suoi esperimenti, cosa pensava della... come se la immaginava? Lei non era ancora stato in America? No, c'ero stato da turista e vedevo nell'America la possibilità di continuare a proseguire quella tipologia di studi che in Europa era totalmente inapplicabile, perché solo qui c'era qualcuno che stava a capire cosa fare con i delfini e le balene. Ecco, poi a un certo punto abbandona i delfini e le balene e capita a proda, sbarca nella Fiat Chrysler di Sergio Marchionne, il quale la nomina amministratore delegato di Alfa Romeo e Lancia, e a quel punto la sua missione è di riportare anche l'Alfa negli Stati Uniti. Allora intanto ci dica un po', ma com'è lavorare con Marchionne? Chiaramente lo sbarco poi in Fiat fu dopo un percorso molto più lungo in multinazionale inglese come Diageo, quindi fu un percorso molto lungo. Ma Marchionne è una persona, un manager di grandissima capacità. Nella mia vita sinceramente non ho mai affiancato nessun altro con le sue doti, la sua visione strategica, che ha la capacità di anticipare generalmente i tempi che il mercato detta, di riuscire con risorse nettamente limitate rispetto ad altri a fare quello che fanno altri. È una persona molto molto molto demanding. Stare al suo fianco non è facile. È una persona che quando uno porta un ottimo risultato ti guarda come per dire: tutto qui? Si dorme poco quindi con Marchionne? Sì, diciamo che bisogna essere molto concentrati su quello che si fa. Mi ricordo all'inizio una riunione dove gli presentai un piano già piuttosto ambizioso, mi guardò con sguardo un po' perplesso e mi disse, allora con lui si parlava solo in inglese, mi fa: Remember, if you dream peanuts, you get monkeys. Che è della sua filosofia. Sì, traduciamo, cioè, quindi se sogno, sogno noccioline, riceverò scimmie. Non un po', quindi, per dire... E lei credeva che fosse quello un piano già importante? Io pensavo che fosse un grandissimo piano, però... E qual era questo piano? Ce lo racconti? Ma il piano era un piano incentrato sullo sviluppo dell'Alfa Romeo, che doveva ricostruire il marchio, questo marchio glorioso che ancora oggi ha delle potenzialità straordinarie, con un grosso rilancio degli investimenti. Chiaramente poi, quando misi i numeri delle quote di mercato, dei volumi, uno le fa in maniera molto tutelante. Lui è quello che spinge giustamente la struttura in generale a guardare molto oltre, a essere ambiziosi, a guardare all'impossibile, che devo dire che è quello che oggi ho imparato e cerco di fare io stesso all'interno di Lavazza. Secondo lei manca un po' di questa cultura americana da noi in Italia? Assolutamente, assolutamente, condivido totalmente. Manca spesso nelle società italiane, dove si cerca di guardare magari il breve senza avere l'ambizione di costruire veramente il grande sogno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com e su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, spirito natalizio, Andy Williams, The Most Wonderful Time of the Year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time, yes, the most wonderful time, oh, the most wonderful time of the year. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.